confesso che adesso sto bene anche se non ci sei. Ho imparato ad amare le cose che più non mi dai. Ossessione e castigo per ogni tua vecchia bugia. E mi ostino a cercare la colpa, e la colpa è la mia. Tu ci sei e vorrei andassi via. Non ci sei, dai vieni a prendermi. Adesso la vita va avanti da sé e sorrido a fatica chiunque mi parli di te. Una tazza di latte riscalda la mia nostalgia. A un amore ferito non resta che l'eutanasia. Incatenate.